Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Deborah Rosciani a Salvadanai. Oggi una puntata speciale, anche la nostra trasmissione non poteva mancare l'appuntamento con il Vinitaly, giunta alla 45esima edizione, e anche Salvadanai in questa occasione torna ad occuparsi di consumo di vini e spumanti, un tema che per la verità abbiamo declinato in mille modi negli ultimi giorni grazie alla presenza di varie trasmissioni di Radio 24 qui in diretta dalla Fiera di Verona. Allora, in che modo noi oggi cercheremo di affrontare l'argomento vino? Lo faremo davvero a 360 gradi, spaziando dal consumo vero e proprio, come riconoscere un buon vino, e quindi ci metteremo dal punto di vista dei consumatori quali sono gli aspetti ai quali prestare attenzione quando si sceglie una bottiglia, la bottiglia di vino come investimento finanziario vero e proprio, cosa troviamo nella grande distribuzione, e dobbiamo fare anche attenzione al vino contraffatto perché purtroppo anche questo cresce in termini di diffusione. Abbiamo un parterre di ospiti estremamente variegato questa mattina, allora intanto ci terrà compagnia per tutta la trasmissione un gradito ospite che torna con noi a Salvadanaio, come l'anno scorso aveva già fatto, Gianpietro Comolli, direttore Forum Spumanti d'Italia, economista esperto di vini, spumanti, responsabile dell'Osservatorio Mercati e Consumi. Ho detto tutto, ha una carica lunghissima, stamattina mi servivano tre righe praticamente. Comolli, buongiorno, buongiorno a lei Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È ritornato naturalmente. Grazie. Saluto invece, perché sono collegati telefonicamente con noi, Domenico Mastro Giovanni, responsabile del settore vino del Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. Mastro Giovanni, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci sente benissimo. E poi Mario Gasbarrino, amministratore delegato di UNES, che è una importante insegna della grande distribuzione, e per conto di Feder Distribuzione. Venerdì scorso ha partecipato al convegno sul tema delle vendite di vino nei supermercati. Sentiremo un po' lì che tendenza c'è. Gasbarrino, buongiorno, benvenuto anche buongiorno, a lei. Buongiorno a tutti. Abbiamo anche collegato già telefonicamente pronto Paolo Repetto, titolare di Vinifera, distributore di vini italiani e francesi nel nostro paese. Stamattina lo abbiamo interpellato in qualità di consulente nel settore finanziario, nell'investimento buongiorno. Di vino, diciamo dal punto di vista finanziario. Repetto, buongiorno anche buongiorno, a lei. Poi abbiamo un altro Deborah. Collegamento, va, sì, ma ve lo presento più tardi. Insomma, tante cose delle quali parlare, però siccome oggi è l'ultimo giorno di Vinitaly, direi Gianpietro Comolli di cogliere anche l'occasione per fare un punto su quello che avete sentito in questi giorni, come si conclude questa edizione, perché Comolli mi raccontava prima che questa 45esima edizione del Vinitaly potrebbe essere proprio definita l'annualità della svolta. Perché? Sì, beh, nell'insieme devo dire che di fronte a un mercato mondiale, a un mercato nazionale con alcune piccole crisi, con alcune difficoltà, sicuramente questo 45esimo edizione è un giro di boa, è un passo, è un cambio di passo, perché secondo me siamo passati prima di tutto ad avere una cognizione sul valore e sull'identità del prodotto, cosa che in questo modo cancella il rapporto qualità-prezzo, che aveva sempre spinto il prezzo verso il basso alla ricerca della qualità. Qui invece parliamo di identità-valore, questo è molto bello. La seconda cosa importante secondo me è che nascono i bianchi frizzanti, i bianchi spumanti, ma anche il bianco tout court. Il vino è sempre stato consumato a cicli e adesso sta aprendosi ai bianchi. Non per questo l'Italia, dato non sicurissimo ma una stima, ma l'Italia produce circa 900 milioni di bottiglie, produce e consumiamo 900 milioni di bottiglie fra vini frizzanti e vini spumanti su 4 miliardi nel mondo, quindi una bella fetta perché è poco più del 20%. Questo è un prodotto del futuro, il prodotto che lega i giovani, un prodotto che attira l'attenzione, un prodotto che fa festa, un prodotto che fa convivialità. E questo noi lo vediamo anche, poi c'è chi parla della grande distribuzione meglio di me, la crescita del numero di bottiglie di frizzanti spumanti acquistati nella grande distribuzione è il segnale che a casa si beve quel vino. Ecco, poi magari ci spiega come mai sta avvenendo anche questo cambio, del quale posso dire sono pienamente rappresentativa perché l'ho sempre apprezzato di più rispetto al rosso. Poi se ho fatto bene o male non lo so, però insomma questo è il mio gusto. Non ho invitato gli ascoltatori a chiamarci, chiedo venia, lo facciamo subito all'800 24 00 24. Avete sentito tutti i vari modi nei quali parleremo di vino noi stamattina a Salvadanaio, quindi raccontateci un po' che tipo di consumatore siete, che cosa cercate fra i banchi del supermercato quando naturalmente volete fare l'accoppiamento giusto rispetto alla pietanza che pensate di preparare per la sera cena, magari invitando degli amici. Raccontateci se siete stati mai attirati dall'investimento in vino, visto che si stanno diffondendo sempre di più anche gli strumenti finanziari finanziari legati a questo prodotto, ci sono anche degli indici di borsa che rappresentano un po' le tendenze delle vendemmie, anche dei prezzi, per cui diteci un po' che cosa ne pensate. Avete paura anche del vino contraffatto? Avete mai pensato che addirittura mettendovi ad un tavolo del ristorante vi possano presentare qualche cantonata? Quindi insomma, stamattina se volete intervenire avete mille modi per farlo. 800 24 00 24 per la diretta, 349 238 6666 il numero per invece inviarci dei messaggi, oppure scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Allora, andrei proprio alla grande distribuzione. Mario Gasbarrina, amministratore delegato di UNES, questa insegna della grande distribuzione, e come vi anticipavo prima, per conto di Federdistribuzione venerdì scorso poi ha partecipato al convegno sul tema delle vendite di vino nei supermercati. Le vendite di spumante italiano crescono, questo avviene nella grande distribuzione come per i vini di fascia alta, questo un po' mi pare, Gasbarrino, la sintesi del convegno di venerdì scorso. Ma i consumatori che cosa cercano tra i banchi dei supermercati quando approcciano appunto al vino? Allora, prima di tutto volevo dare una rapidissima, qualche piccolo dato sul discorso del consumo del vino. Noi veniamo, il mercato del vino italiano è un mercato maturo. Siamo passati da 120 litri a testa dell'86 a 60 di 20 anni fa, poco meno di 40 attuali. Siamo comunque, dopo la Francia, ma insieme alla Francia, il paese più importante. Il motivo è che chiaramente spariscono i grandi bevitori, ci sono nuovi stili di vita, i giovani consumano meno e non tutti i nuovi immigrati consumano vino per cultura, tradizione e religione. In sintesi si beve meno ma si beve meglio. Per contro, dall'altro punto di vista, abbiamo circa 35.000 aziende, poche marche e ci sono anche problemi di sovrapproduzione. Parlare in Italia di vino vuol dire parlare fondamentalmente di grande distribuzione. Perché? Perché più del 60% delle vendite oggi sono veicolate attraverso la grande distribuzione. Questo è il risultato di una collaborazione storica e non sempre riconosciuta tra GDO e il vino. Inoltre, tanto per dare un'idea, oramai il 75% del consumo di vino alla grande distribuzione si fa nelle bottiglie da 0,75, a conferma del fatto che si beve meno ma si beve meglio, e 2-3 anni a questa parte è entrato anche nella grande distribuzione un fenomeno che oramai caratterizza un po' tutti, che è quello della polarizzazione dei consumi, nel senso che i segmenti più importanti sono sotto i 3 euro, che pesa il 75%, ma il segmento sopra i 6 euro è il segmento più dinamico. Vi do solo questo dato: l'anno scorso il mercato del vino è cresciuto delle 0,9, il segmento sopra i 6 euro è cresciuto dell'11%. All'interno della catena che io gestisco, la UNES, il segmento sopra i 6 euro è cresciuto del 40%. Quindi evidentemente c'è sicuramente una grande attenzione e una grande selezione, a riprova anche dal fatto che la grande distribuzione da sempre, nonostante tutto, ha investito fortemente nel vino perché ci crede. È chiaro che però quest'anno abbiamo qualche piccolo segnale debole, noi dobbiamo prepararci ai segnali deboli. I segnali deboli appunto sono evidentemente un rallentamento dei consumi, ma non poteva essere altrimenti. Io segnalo una cosa: la grande distribuzione non si è mai detto abbastanza, ma ha contribuito in maniera enorme al contenimento dell'inflazione. Vi do solo tre dati per capire: dal 2003 al 2010 l'inflazione è stata del 14,6%. Tariffe e servizi sono state del 29,2%. Quante ve ne siete assorbita? E noi abbiamo aumentato i prezzi solo del 5,5%. Questi sono dati fonti RAI. Va bene, grazie Gasbarrino. Lasciamo il discorso però circoscritto al vino, perché volevo sentire anche un commento Gian Pietro Comolli rispetto a questa tendenza che Gasbarrino ci raccontava relativamente al fatto che comunque i prezzi anche di fascia di prezzo, che comincia ad essere discretamente alta, stanno trovando sempre più largo consenso fra i consumatori. Le chiedo però, e probabilmente questa è una domanda che all'industria viene fatta costantemente e frequentemente, se è sempre vero che ad un prezzo più alto del vino corrisponde sempre necessariamente una qualità maggiore. No, non è così automatico. Sicuramente ci sono dei prodotti che hanno bisogno di una metodologia di produzione, che vengono da territori un po' particolari, difficili nella produzione. Ci sono anche dei canali distributivi dove effettivamente i prezzi raggiungono anche delle cifre superiori a quello che potrebbe effettivamente essere quel famoso rapporto che dicevo prima, identità-valore. Per cui oggi ci sono sicuramente dei vini a cui l'identità del territorio e il valore aggiunto di un sistema che ruota attorno a quel prodotto che fa crescere sicuramente il prezzo. Quindi non è un elemento specifico della qualità. Oggi in più la tecnologia aiuta anche certi vini, tipo quelli frizzanti e spumanti, visto che è un sistema tecnologico molto all'avanguardia nella produzione, soprattutto del metodo italiano, quindi del metodo che si fa nelle grosse autoclavi, dove l'economia di scala in certe aziende è facilmente raggiungibile. Ci sono dei vini però sempre spumanti, metodo classico, che invece hanno bisogno logicamente di superficie, hanno bisogno di personale, c'è una manualità maggiore ed ecco che allora il prezzo si trasferisce sul prezzo poi finale. Quindi, e nella grande distribuzione abbiamo l'occasione di vedere sia il buon vino a prezzo contenuto sia il buon vino a un prezzo più elevato. Volevo sentire su tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, prima di introdurre il tema del vino anche dal punto di vista dell'investimento di natura finanziaria, Paolo Repetto, titolare di Vinifera, che è un distributore di vini italiani e francesi. Repetto, buongiorno intanto ancora di nuovo. Buongiorno a voi. Come si ritrova nelle considerazioni fatte fino a questo momento anche il vino sul banco della grande distribuzione, il consumatore che naturalmente comincia ad essere, consuma di meno, ma comunque un aspetto della qualità che non viene ormai più trascurato, quindi un consumatore sicuramente più evoluto, si ritrova in queste riflessioni? Ma in linea di massima sì. Cominciamo col dire che io opero principalmente in un canale che si chiama Horeca, quindi nella ristorazione, nelle enoteche, che però mi sembra che segua abbastanza di pari passo l'andamento del mercato che ha descritto prima il signor Gasbarrino. Anche nella ristorazione c'è una tendenza che dura ormai da anni a bere di meno, ma a bere sempre meglio. Diciamo che negli ultimi 2 anni, a partire dalla metà del 2008 con l'inizio della crisi, oltre che bere meno c'è anche un po' la tendenza a spendere un po' di meno, ma credo che sia anche giusto, insomma. I vini di qualità negli scorsi anni avevano raggiunto prezzi decisamente molto importanti. Adesso c'è un po' un ridimensionamento del prezzo dei vini, mi sembra che ci sia ancora anche in ristorazione un calo dei consumi che però credo che negli ultimi mesi stia diventando un po' più contenuto. La speranza è che la gente continui comunque a proseguire su bevute di grande qualità. Ottimo, allora tra l'altro c'è un ascoltatore che stavo guardando, anzi un'ascoltatrice, prima parlavamo dei vini bianchi che stanno riguadagnando anche in popolarità, questa è una tendenza che veniva rilevata qui a questa edizione del Vinitaly, secondo quanto ci raccontava Gian Pietro Comolli poco fa. Cristina ci dice: come la mettiamo con l'abbondante uso di solfiti che vengono usati molto più nel vino bianco e sono dannosi per la salute, non facciamo finta di nulla? Allora Cristina, io di questo non ne so molto, magari dopo interpelliamo gli agricoltori, appunto i vitivinicoltori, su questo tema anche, e quindi è una domanda che farò nella seconda parte della nostra trasmissione a Domenico Mastro Giovanni, appunto della Confederazione Italiana Agricoltori. Intanto credo che siamo già giunti alla nostra prima pausa, vi ricordo ancora che potete intervenire all'800 24 00 24, vedo già in prenotazione molte riflessioni interessanti, cominceremo a sentirvi tra pochissimo. Salva Danaio, oggi lunedì 11 aprile in diretta dal Vinitaly di Verona, come hanno fatto molte delle trasmissioni di Radio 24, ospiti in questi giorni del padiglione del Trentino, dobbiamo anche ricordare, quindi ringraziare anche naturalmente gli amici che ospitano la nostra postazione radiofonica. Noi stamattina a Salva Danaio parliamo di vino e, come vi avevo già anticipato, decliniamo l'argomento a 360 gradi, parliamo dei vostri consumi, parliamo di quello che ricercate tra i banchi della grande distribuzione, quanto vi condiziona il prezzo. Adesso dobbiamo introdurre anche altri due temi, il vino come investimento finanziario e il vino anche purtroppo a volte contraffatto. Allora su questo punto ovviamente interpello la Confederazione Italiana Agricoltori. Domenico Mastro Giovanni è il responsabile del settore vino del Dipartimento Sviluppo Agroalimentare della CIA. Leggo qualche notizia che è stata diffusa proprio in occasione del Vinitaly. Sugli scaffali e nei ristoranti di tutto il mondo sono sempre di più le bottiglie di vino che di italiano hanno soltanto il nome. Per ogni bottiglia autentica ce n'è una contraffatta e ammonta a 2 miliardi il giro d'affari del vino tarocco nel mondo. Mastro Giovanni, questa è una bella battaglia, mi sembra. Sì, è una battaglia molto dura, anche ripartendo dai dati che sono stati dati in precedenza. Dobbiamo tenere presente che noi abbiamo una organizzazione, una legislazione a livello nazionale molto rigida. A livello europeo lo è molto meno, basata sulle indicazioni geografiche e denominazioni di origine. A livello mondiale visto i numeri che oggi tocca il settore del vino e non ci sono accordi precisi di salvaguardia di queste produzioni, spesso registriamo nell'agroalimentare, in particolare per prodotti come il vino che sono un po' all'apice dell'agroalimentare e del Made in Italy, una elevata percentuale di contraffazioni. In alcuni contesti territoriali siamo una bottiglia vera e una contraffatta, quindi il danno diretto e indiretto è molto elevato. Ecco, al di là del fatto che la contraffazione ovviamente non è un fenomeno giusto, mi chiedo come fa il consumatore anche a riconoscerle appunto un vino che magari porta una denominazione anche contraffatta molto spesso, perché ci si lascia confondere anche da quell'aspetto. Mi chiedo, ma in realtà avevo un'altra curiosità, Mastro Giovanni, in Italia lei ci spiegava siamo molto più tutelati, ma è possibile che capiti che andiamo in un ristorante e ci diano un Barolo che in realtà non è quello autentico, anche nel ristorante italiano? Guardi, è come per le monete, c'è sempre il grande contraffattore che riesce anche a fare la contraffazione di quelle che sono le fascette che vengono rilasciate dal poligrafico dello Stato, per cui il rischio non è mai uguale a zero. Il fatto di guardare l'etichetta e vedere se c'è l'indicazione del vino, se è una denominazione di origine, un'indicazione geografica, se c'è o meno la fascetta che ne indica che è stato certificato o il lotto, è molto importante. Bisogna abituarsi che stiamo leggendo i componenti di una bevanda, il vino, che ha delle caratteristiche. Quando queste sono mistificate da notizie che possono risultare poco veritieri, bisogna approfondire per evitare di bere cose che non sono vere. Certo, prendendo la bottiglia si può stare molto attenti, c'è anche la moda adesso abbastanza diffusa di prendere magari solamente il bicchiere di vino, quindi lì magari la tutela comincia ad essere un po' più, la difesa comincia ad essere più difficile. Voleva rispondere Mastro Giovanni anche alla sollecitazione che ho lanciato prima della chiusura del primo blocco della nostra trasmissione, i vini bianchi e l'abbondante uso di solfiti, come sollecitava appunto, sollevava, un aspetto che sollevava, un problema che sollevava una nostra ascoltatrice. Il rapporto tra anidride solforosa e agroalimentare è molto saldo, perché la solforosa è utilizzata come antiossidante, stabilizzante e come in alcuni casi modificatore del gusto. Se è utilizzata, perché è anche consigliata, ai fini di antiossidante e di stabilizzante in piccole quantità, non è assolutamente percettibile. Quando invece se ne fa un uso in maniera abbondante, questo purtroppo succede spesso nei vini bianchi, diventa da elemento correttore un elemento di disturbo che spesso dà anche degli effetti collaterali molto evidenti. Siccome ricordavo in precedenza, il vino che finisce in particolare in bottiglia è soggetto spesso, quando è una denominazione geografica, un'indicazione geografica, ha il fenomeno della certificazione. Se si riscontra qualcosa che non va, si può risalire a chi ha certificato questo prodotto e evidenziare che sono presenti delle quantità di solforosa che non sono idonee. Voglio anche dire che a livello italiano noi ci stiamo impegnando, perché c'è una grossa richiesta di vino che ha caratteristiche biologiche, a definire un disciplinare in cui sia evidente la percentuale di solforosa e quindi un premio verso chi ne fa un uso corretto e non chi ne fa un uso scorretto come modificatore del gusto dei vini. Speriamo di aver tranquillizzato la nostra ascoltatrice. Allora andrei anche a qualche domanda di qualche ascoltatore, poi vado e saluto anche Lucia Lorenzoni di Monte dei Paschi Finance, appunto per essere intervenuta, per essersi l'abbiamo interpellata telefonicamente, poi ve la presento, perché Monte dei Paschi ieri ha presentato un indice appunto del vino. Vi racconterò anche che cosa consiste questa esperienza, anche perché l'industria bancaria è interessata anche a lanciare un indice del vino, poi lo capiremo fra qualche minuto. Intanto ritornerei fra i banchi dei supermercati nella grande distribuzione con Francesco della provincia di Treviso, che saluto. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Niente, io intanto, sì, buongiorno, io sono da vicino a Valdobbiadene, dove producono il Prosecco. E sono un consumatore però di vino rosso e lo vado a prendere da un produttore che oltretutto è mio amico, il Pendici del Montello. E qualche volta ci facciamo delle domande come i costi che ha lui per fare un litro di vino, e poi andiamo sui supermercati dove troviamo le bottiglie a €1, €1,05, e delle volte ci scandalizziamo perché troviamo l'olio che è a €3, non è olio, e quello è il vino, che vino è quello, volevo chiedere. Ecco Francesco, guardi, la ringrazio per questa domanda che era esattamente il punto sollevato da molti ascoltatori identicamente anche nella trasmissione che abbiamo fatto l'anno scorso. Vado a Mario Gasbarrino che rappresenta stamattina la grande distribuzione per capire un po' che spiegazioni ha rispetto a questi ragionevoli dubbi che molti consumatori hanno. Mia mamma la chiamerebbe l'acquatinta, dottor Gasbarrino, appunto proprio così un po' per definire il vino che si trova a questi prezzi sui banchi dei supermercati. Allora, prima di tutto diciamo, vorrei confortare tutti sul fatto che la grande distribuzione, tutti in generale, hanno dei capitolati diciamo, di approvvigionamento molto rigidi, perché fondamentalmente ci mettiamo la nostra faccia. Cioè, la grande distribuzione sarà quella che ha fatto crescere il consumo del vino e che è molto attenta ai segnali deboli, tipo il fatto per esempio che noi adesso nel momento in cui vediamo che c'è uno spostamento verso la richiesta di maggiore qualità e di fascia di prezzo, il nostro obiettivo è quello evidentemente di assecondare questo tipo di discorso. Ma cosa vuol dire il capitolato di approvvigionamento, come tutela il consumatore? Allora, qualsiasi tipo di vino che noi compriamo è assolutamente diciamo certificato, perché abbiamo dei capitolati, vengono fatte delle analisi, quindi da questo punto di vista non c'è nessun tipo di problema. È chiaro che sicuramente io prima facevo diciamo velocemente facevo accenno al fatto che ci troviamo in un mercato molto diciamo frammentato, nel quale evidentemente c'è anche una capacità overproduttiva, per cui noi per prima diciamo in un modo o un altro ci troviamo di fronte, cioè se il prezzo è troppo basso è perché evidentemente si produce il doppio di quello che dovrebbe servire e quindi inevitabilmente c'è un sistema per cui la gente, pur di non buttare via il prodotto, evidentemente lo vende sotto costo. Non è la strada e non è la volontà. Quindi non è sempre detto che il prezzo molto basso qualche volta può essere dovuto a una iperproduzione, una capacità iperproduttiva che deve essere assorbita dal mercato. Certo. Guardi, bisogna tra i segnali deboli a cui noi siamo molto attenti, ce ne sono alcuni, cioè la difficoltà oggi di questo nostro mestiere è che ci troviamo di fronte a un cliente sempre più povero, ma che al tempo stesso è più imprevedibile e altalenante, che chiede qualità e convenienza, allo stesso tempo chiede anche trasparenza e maggiori informazioni, e quindi è chiaro che noi saremmo dei folli se facessimo un discorso. È semplicemente che c'è un mercato nel quale c'è una grandissima concorrenza, si sommano due fatti. Io prima le ho citato i dati: a fronte di tariffe che crescono del 29%, inflazione del 15%, la grande distribuzione è cresciuta del 5%, i prezzi li ha aumentati del 5,5%, infatti le vendite sono in calo, il bilancio della grande distribuzione li può vedere. La grande distribuzione è l'unico settore dove c'è una vera concorrenza orizzontale, dopodiché la grande distribuzione, si ricordi che veniamo fuori da un periodo nell'86 tutti quanti parlavano di metanolo, ne sono passati di anni e non è successo assolutamente niente, però evidentemente la grande distribuzione ha fatto diciamo esperienza da quella diciamo incidente increscioso e quindi è estremamente rigido tutti quanti e sono molto estremamente rigidi e severi, quindi io posso dire assolutamente il discorso del prezzo ci sono delle partite di vino che hanno tutte le caratteristiche per essere in grado. Non è quello che noi vorremmo, però dobbiamo anche diciamo accontentare una fascia di gestire anche le difficoltà e certo le congiunture economiche. Ecco. Allora, sì, Gasparino, avevo capito Gasbarrino, anzi che mi sbaglio sempre. Volevo salutare Lucia Lorenzoni dell'area Research di Banca Monte dei Paschi Finance. Lorenzoni, buongiorno. Buongiorno. Allora, devo andare adesso già ai suggerimenti per chi è in viaggio, per cui ancora chiedo un attimo di pazienza sia a Lucia Lorenzoni che a Paolo Repetto, che ho fatto decantare esattamente come il vino per gran parte della trasmissione. Adesso nell'ultima parte affronteremo proprio il tema del vino e la borsa, del vino e il mercato finanziario, come possono associarsi questi due mondi, lo stanno facendo, forse non con troppo successo nel nostro paese, ma altrove invece sì. Allora andiamo a vedere cosa succede sulle strade italiane, anzi andiamolo a sentire e poi ritorniamo subito qui a Salvadanaio in diretta dal Vinitaly di Verona. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Lucia Lorenzoni, ho sbagliato carica, prima la ripreciso. Lavora presso l'area research, la ricerca, quindi nel settore economico e finanziario per Banca Monte dei Paschi. Monte dei Paschi ha elaborato il cosiddetto Wine Index, che è un indice di competitività come prezzo ponderato di quasi 100 vini di qualità prodotti in regioni determinate. Una cosa molto strana, molto complessa. Come mai una banca pensa di avventurarsi in un terreno di questo tipo? È comune nell'attività delle banche italiane elaborare un indice che rappresenti l'andamento possibile futuro, quasi come un futures appunto per il vino, Lorenzoni? Ma sì, noi innanzitutto siamo una banca molto legata al territorio e con forte tradizione di credito agrario, quindi l'idea diciamo di creare un indice che ci desse un po' un'idea di quelle che erano le pressioni competitive che il vino italiano incontra sul mercato internazionale viene proprio dall'esigenza di poter dare alla nostra clientela un'idea di quello di come si sta evolvendo il mercato del vino e monitorarlo mensilmente. Inoltre siamo l'idea di occuparci di vino e di creare un indice proprio del settore viene anche dal fatto che il vino è uno dei simboli del Made in Italy, quindi è un settore di estrema importanza. Non solo per noi, siamo molto legati al territorio, abbiamo una forte tradizione di credito agrario, ma anche per il paese stesso. È per questo che ci siamo interessati appunto a questo comparto. Forse non è ancora cosa molto comune o molto diffusa, però effettivamente l'indice dà un'idea abbastanza chiara di come la situazione del mercato del vino si sta evolvendo nel tempo. Ecco, da quello che capisco avete già preannunciato che per il 2011 ci sarà un aumento dei prezzi del vino di circa il 9% per quello che riguarda i vini italiani, sì. Lorenzoni? Sì, questo è quello che emerge dal nostro indice, che fondamentalmente è un indice ponderato sui pesi che i vini di qualità e i vini comuni hanno all'interno delle esportazioni italiane, per cui il nostro indice ci mostra una risalita dei prezzi e quindi minori pressioni competitive per i produttori italiani. Questa risalita dei prezzi è già iniziata da qualche mese e il nostro indice ha una forte correlazione con l'indice Future, il principale Future di settore, il LiveX 100. Tra l'altro il Future anticipa con un gap temporale di circa 3-6 mesi l'andamento del nostro indice e la recente risalita registrata dall'indice Future ci fa essere ottimisti anche per l'andamento del nostro indice che appunto dovrebbe chiudere l'anno con un incremento intorno al 9%. Grazie a Lucia Lorenzoni che lascio perché ho tirato fuori a forza dall'ufficio e vado a Paolo Repetto di Vinifera perché come vi ho già preannunciato in apertura lo abbiamo chiamato proprio per fare per noi questa mattina l'esperto dell'investimento in vino qualora lo si volesse fare proprio solo ed esclusivamente da un punto di vista finanziario. Repetto, che valore hanno questi indici quasi di borsa appunto che ci rappresentano anche ipoteticamente l'andamento dei prezzi nel settore vitivinicolo da qui a qualche mese? Sono, come dire, indicatori importanti per gli operatori del settore? Assolutamente sì, ma intanto io comincerei a fare un piccolo distinguo. Questo tipo di indici sono molto recenti, sono andati veramente negli ultimi 4-5 anni. Esiste un solo indice di riferimento internazionale per quanto riguarda i cosiddetti fine wine, ovvero i vini di qualità, che è l'IVEX, indice citato prima da Lucia Lorenzoni. È un indice inglese, mi pare, no? Elaborato dalla City? No. È di origine inglese, no? Sì, è inglese, è un indice inglese, è nato in Inghilterra, non poteva nascere che in Inghilterra, perché l'Inghilterra è sempre stato il principale mercato di riferimento dei grandi vini da investimento, diciamo, e quindi dei grandi Bordeaux. Sono curioso sinceramente di avere qualche informazione in più sull'indice di cui parlava la signora Lucia, quello elaborato dalla Monte dei Paschi di Siena e anche la correlazione di cui si parla, ma lo chiedo perché mi sembra che l'indice elaborato dalla Monte dei Paschi di Siena basi diciamo le sue performance su circa 100 vini VQPRD, se non sbaglio, i vini da tavola, sì. Mentre l'indice Livex, che è poi diciamo la Bibbia di tutti gli investitori aspiranti tali sui fine wine, basa le sue prestazioni sui 100 vini più scambiati, più ricercati al mondo, che sono la quasi totalità vini di Bordeaux. E quindi mi piacerebbe avere qualche informazione in più perché so che è un indice nuovo quello della Monte dei Paschi di Siena, ma sì, infatti è stato presentato proprio ieri al Vinite. Sicuramente vi metteremo magari se vuole in contatto per avere qualche delucidazione. Comunque insomma abbiamo capito due panieri assolutamente completamente diversi. Oltre a questi riferimenti, ripeto, abbiamo anche un'altra modalità per investire sul vino, la sottoscrizione di veri e propri prodotti finanziari, sono i certificati en primer sul vino. Anche lei questo è un mondo che conosce molto bene, ci spiega che cosa sono, come funzionano e soprattutto, a parte diciamo il taglio di investimento che può essere sottoscritto anche magari da un piccolo investitore nel settore, ma secondo lei è un mondo al quale un piccolo risparmiatore, investitore si può approcciare agilmente, facilmente? Beh, facilmente no, si può approcciare ma non facilmente. Prima di tutto vorrei solo un attimo fare chiarezza su che cosa sono i primer. I certificati, sì. Ecco, i primer sono dei certificati che vengono rilasciati dalle aziende vinicole, sono nati in Francia, a Bordeaux ovviamente, vengono rilasciati alle aziende vinicole dando la possibilità agli investitori, agli acquirenti, ai consumatori di acquistare un vino prima che sia fisicamente immesso sul mercato. Proprio in questi giorni, io sono arrivato sabato da Bordeaux, è stata presentata l'annata 2010, la vendemmia 2010 che sarà messa nel mercato poi tra circa 24 mesi. È stata un'altra grande annata a seguito di un'altra annata eccellente che è la 2009. Sì, assolutamente un investitore può accedere a questo tipo di mercato. Ci tengo a dire che in Italia in questo momento non esistono dei veri e propri fondi di investimento sui fine wine, per il semplice fatto fondamentalmente che la Consob non è in grado in questo momento di monitorare quello che è l'andamento del valore dei vini pregiati. Ma questo può anche essere comprensibile dato che l'IVEX, l'indice di riferimento, è nato da circa 5 anni, quindi nonostante l'investimento sul vino abbia una tradizione lunghissima, cioè da secoli la nobiltà inglese investe sui fine wine, l'argomento è diventato un po' più democratico, diciamo, di ampio respiro negli ultimi 15 anni e quindi ci sarà un po' bisogno ancora di un po' di tempo. Ecco, quindi è molto difficile poter, come dire, entrare in banca, andare dall'impiegato, dall'addetto allo sportello della mattinata e chiedere la sottoscrizione di un certificato in primer. È un'operazione un po' complessa, può accadere solamente in certi sportelli bancari, come per esempio per il Banco di Sicilia che appunto distribuisce certificati di certe aziende molto importanti della propria zona, ma anche di altre. Quindi solo alcune banche lo fanno, se non sbaglio, ripeto, vero? No, allora alcune banche lo fanno e continuano a farlo. Bisogna però capire una cosa: se un investitore vuole fare l'investitore, quindi acquistare dei certificati che gli danno le possibilità nel tempo di avere delle performance finanziarie, o se vuole fare questa cosa per sfizio e per gioco. Questo perché lo dico? Perché purtroppo dobbiamo guardare in faccia alla realtà. Gli unici vini, salvo rarissime eccezioni, parliamo di 3 o 4 etichette italiane, gli unici vini che offrono possibilità di performance finanziarie ottimali, quindi che possono essere acquistati in premier a un valore e che dopo 2 anni, quindi quando vengono immessi sul commercio, hanno realmente un valore più importante, sono i vini di Bordeaux. Okay. Sono i vini di Bordeaux, una manciata di vini di Borgogna e 2 o 3 etichette italiane. Quindi tutte le operazioni che vengono fatte di vendita in premier per quanto riguarda le aziende italiane sono delle cose molto belle, perché è giusto che si faccia comunicazione anche in questo modo, però bisogna dire... muoviamoci con un po' di prudenza, insomma. Allora, in altro, l'altra notizia è che fra 2 minuti dobbiamo chiudere la nostra trasmissione, allora vorrei almeno sentire un paio di ascoltatori se ce la faccio. Rapidamente, Giovanni da Torino, buongiorno, rapidissimo. Salve, buongiorno a lei, volevo giusto ricollegarmi al discorso che ha fatto il signor Repetto sul discorso dei fine wine e dell'investimento vini in primera. Magari tante persone non lo sanno, però nel 2010 l'investimento in fine wine, mi riferisco all'IVEX 50 nel particolare, ha reso più dell'investimento in oro, che è l'investimento, diciamo, che ha reso di più, molto di più. Giovanni, del mercato, sì, questi dati azionario. Li avevamo portati questa mattina. Ottimo, quindi insomma l'investimento in oro lo considerano come un bene rifugio. Qua abbiamo scoperto questa mattina che possiamo identificarne con chiarezza anche un altro di conseguenza. Giovanni, la ringrazio per la sua osservazione. Vorrei al volo andare a Nello da Pavia, poi chiudo con Gianpietro Comolli. Nello, buongiorno. Buongiorno, Nello. Dottoressa. Sì, rapidissimo. Della trasmissione. Solo una domanda semplicissima: qual è la differenza tra vino da tavola e il vino da invecchiare? Grazie, vi ascolto per radio. Grazie, Nello, no, perché insomma c'è questa maggior dignità nel vino invecchiato rispetto a quello che si mette sulla tavola. Comolli, è così oppure è un pregiudizio che abbiamo? No, un luogo comune. Sicuramente abbiamo parlato molto e i nostri ospiti al telefono hanno soprattutto concentrato l'attenzione su questi fine wine, dove logicamente c'è un grande business, c'è un grande interesse, ma dove l'Italia sinceramente non fa una grande figura, sì in termini numerico che anche in termini di valore. Però attenzione, l'Italia ha una sua storia, possibile che un paese che si vanta ancora di essere il primo nella produzione non abbia una sua consob del vino, che non abbia una sua società che fa questo? Cioè, credo anzi addirittura che questo Vinitaly abbia segnato un'altra grande svolta, un altro grande passaggio. Cioè l'Italia deve essere e tornare ad essere non più il primo paese che produce vino, ma il primo paese della strategia del vino, quella che logicamente determina poi determinate scelte. Allora, Comolli, no, io sente che c'è la sigla sotto. Sentito. No, purtroppo non possiamo dire che differenza c'è fra il vino da tavola e il vino invecchiato ai nostri ascoltatori. In 3 secondi ce la fa? Certo, il vino invecchiato è quello che ha bisogno di tempo per maturare e può essere dato provenire solo da determinate basi di vino. Il vino da tavola è un vino che non ha una denominazione di origine, non ha una provenienza chiara, dove logicamente il sistema produttivo e del lavorativo consente dell'economia di scala meravigliose, dove i grandi industriali del vino riescono Perfetto. A fare un ottimo prezzo. Grazie, io ringrazio tutti gli ospiti, non riesco a citarli tutti individualmente. Ringraziamento particolare a Filippo Aureggi e Davide Ciocia che ci hanno garantito la splendida assistenza tecnica in questi giorni qui a Verona. Salvadanaio, credo sia l'ultima trasmissione di questo giro di Vinitaly, 45esima edizione. Grazie anche al padiglione del Trentino che ci ha ospitato. Da Deborah Rosciani ci risentiamo, grazie a tutti, domani in diretta da Milano. Buona giornata.